Sia questa la nostra dichiarazione di oggi. A te mi arrendo, a te mi arrendo, a te mi arrendo, perché so che tu provvedi, perché so che tu sei un Dio giusto, perché so che tu sei un Dio buono, perché so che tu sei un Dio che non manca mai di incontrarmi. Amen, Chiesa? Amen, Chiesa? Accomodiamoci con questa dichiarazione. Oggi questo tempo di lode non finisce, continuerà, ma manteniamo lo sguardo su quello che abbiamo appena cantato. Sono delle dichiarazioni troppo forti, troppo intense, troppo pericolose, troppo sincere, troppo profonde per lasciarle qui come parole buttate su una musica. Dobbiamo pensare a questo incontro come un incontro unico. Non c'è il momento di lode, no? Non c'è la predicazione, non c'è un'altra parte, ma c'è la nostra dichiarazione, c'è la nostra parte, c'è la nostra preghiera. E voglio cominciare subito con quella che è una domanda che da qualche settimana mi porto nel cuore, che è una domanda delicata, una domanda potente, una domanda che ti cambia a tutto quello che hai nella testa. E questa domanda è questa, ve la facciamo anche vedere. Dove eri tu? Chissà dov'è questa domanda. Lo sai dov'è, in quale libro della Bibbia è scritta? Giuseppe Tritto? Ti ho colto impreparato. Ah, tu rispondi solo al pastore Pinuccio, lo so. Stasera per il pastore Pinuccio. Dove eri tu? Bravo! Facciamo un applauso a questo ragazzo che le sa tutte. Dobbiamo fare un gioco che si chiama Chi vuole essere Giuseppe Tritto, perché le sa tutte. Questa è una domanda che noi troviamo in un libro che è particolare, che è il libro di Giobbe, che è un libro che dichiara in maniera proprio esemplare: non io, ma tu. Non io, ma tu. Tutti i libri della Bibbia dichiarano questo, ma in particolar modo, se c'è un libro che lo dichiara dall'inizio alla fine, è proprio il libro di Giobbe, che è un libro che ha un'origine particolare, non è così definito, ma se noi lo leggessimo nella completezza potremmo apprezzare dei principi fondamentali. E oggi lo vedremo tutto dall'inizio alla fine, sono 42 capitoli. Chi vuole essere con me? Nessuno ha detto amen. Però sceglieremo dei versi per leggere insieme tutto questo. Che bello avervi. Intanto è molto bello avervi. Salutate il pastore Michele da parte mia. Questo è un tema, e in questo libro troviamo questa domanda: dove eri tu? Non è una domanda che Giobbe fa a Dio, è una domanda che Dio fa a Giobbe. E qua già cominciamo a comprendere dove vogliamo andare a parare. È un libro che quando lo cominci a leggere dici: mamma mia, ma sto poverino, tutti a lui, no? Se leggi i primi due capitoli pensi: quanto si è accanito il nemico, mi sa che ho il rossetto sui denti. Quanto si è accanito il nemico sulla vita di quest'uomo? Un uomo ricco, benestante, benedetto, giusto, integro, questa è la sua descrizione, eppure Satana comincia a divertirsi con lui, a togliergli tutto. Le più grandi tragedie vengono vissute da lui nei primi due capitoli. E non so se voi lo facevate, ma io quando ero piccola avevo l'abitudine di cominciare un libro, di leggere le prime pagine e poi di andare subito alla fine. Chi lo faceva con me? Tutti i maniaci del controllo. Dobbiamo curarci. Perché ci sono varie spiegazioni, no? Perché uno deve già spoilerare il finale, già andare a leggere come finisce. Una delle motivazioni che mi sono data da psicologa dopo tanti anni è che volevo capire se ne valeva la pena leggere quel libro e spendere tutto quel tempo. O qualcuno direbbe per l'ansia, per le manie di controllo, non lo so. Fatto sta che io quando cominciavo un libro da piccola leggevo sempre prima il finale, e quando leggete Giobbe alla fine cominci e dici: qui c'è una tragedia, cambierà mai questa situazione? Quando lo leggi alla fine, gli ultimi due capitoli, dici: oh, mamma mia, meno male, perché non ce l'avrei fatta. E tutto il libro è un libro che parla della sofferenza. È un libro che parla della sofferenza umana e di come Dio fa counseling a Giobbe nella sua sofferenza. Ci sono vari protagonisti, anzi protagonisti minori, ma il grande protagonista di questo libro è la sofferenza. È la sofferenza che Giobbe prova per il dolore. Il dolore di aver perso dei figli tramite degli incidenti terribili. Il dolore di perdere tutti i suoi averi. Era un uomo ricco, ma istantaneamente tutti i suoi averi crollano, le sue finanze crollano. Ancora, c'era qualcosa che non era stata invalidata, che non era stata toccata, ed era il suo corpo. Ma anche quello viene toccato. Ed è un uomo che è ridotto a zero. È un uomo che lo troviamo atterrato da tutti i punti di vista. Persino sua moglie, ve lo faccio leggere. Persino sua moglie è motivo di forte scoraggiamento e di traviamento spirituale. Ma lui rimane fermo. Leggiamo due versi. Giobbe 1, dal capitolo 1, dal verso 20 al verso 22, lo possiamo leggere. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rasse il capo, si prostrò a terra e odorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Che dichiarazione. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Tutto viene da Lui e tutto va a finire a Lui. Sia benedetto il nome del Signore. Già cominciamo a capire che quest'uomo ha dello straordinario. È un uomo che nel bel mezzo della tragedia si mette a lodare Dio. Non sbaglia con le sue parole. In tutto questo Giobbe, c'è proprio scritto nella Bibbia, non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Questo è un passaggio importante. Lo vedremo nei prossimi capitoli. Guardate ancora al capitolo 2, dal verso 7 a 10. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse, cioè con tutta sta tragedia ha avuto anche una moglie contro. E ancora stai saldo nella tua integrità? Guardate dove ha toccato, dove ha messo il dito, nell'integrità, che è esattamente la caratteristica principale di quest'uomo. Ma lascia stare Dio e muori. Sceglietevi le mogli e i mariti da avere. No, no, non sto scherzando, perché non importa che siano belli, belle, che siano performanti, non so, sceglietevi le persone che accanto nei momenti delicati non vi distruggano, ma vi costruiscano, che vi edifichino. Se questo è un principio di scelta, scegliete questo per il vostro matrimonio. Questo è l'esempio di come non dovremmo scegliere una moglie, di come non dovremmo scegliere il partner, colui che ci allontana da Dio e che non ci avvicina proprio in un momento come questo. E sentite Giobbe cosa le rispose: tu parli da donna insensata, se l'è meritato, vero? Questa volta abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male. Wow. In tutto questo, ancora una volta, Giobbe non peccò con le sue labbra. Come se non bastasse, tolti i figli, tolti gli averi, la moglie che era meglio se stesse zitta, a un certo punto arrivano tre fantastici amici. Le persone più sbagliate al momento sbagliato. Per chi di voi segue il counseling, sapete che insegno counseling, questo è tutto quello che un counselor non deve fare, ok? E che cosa fanno questi tre amici? Elifaz, Bildad e Zofara. Ero tentata, Giuseppe, dal chiederti come si chiama, ma non l'ho fatto, ok? Così. Arrivano e l'unica cosa buona che fanno è questa che leggiamo ora, al capitolo 2, dal verso 11 al verso 13. Tre amici di Giobbe, Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Zofar di Nama, avendo udito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono, che bello, ciascuno dal proprio paese, wow, e si misero d'accordo per venire a confortarlo e consolarlo. Stupendo, che bello. Quando viviamo tragedie è sano che qualcuno senta nel cuore di venire ad aiutarci. Questo ci cura dalla solitudine, questo ci cura dal sentirci isolati. Nella sofferenza abbiamo bisogno di qualcuno che lasci la propria situazione e che venga da noi. Certo, non questo qualcuno, o come loro hanno fatto, ma chiediti se devi lasciare qualcosa per andare ad incoraggiare qualcun altro. Questo sì che è glorioso. E che cosa fanno questi uomini? Alzati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero per quanto era trasfigurato dal dolore, e piansero ad alta voce. Si stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere gettandola verso il cielo. E questa che stiamo per leggere ora è l'unica cosa buona che hanno fatto questi tre. Rimasero seduti per terra con lui 7 giorni e 7 notti. Nessuno di loro gli disse parola, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Quando abbiamo voglia di incoraggiare qualcuno davanti alle grandi sofferenze, non so voi, ma quello che mi viene fuori dalla bocca è esattamente la cosa sbagliata. Cioè tutto quello che non... Io ricordo benissimo, siamo andati ad un funerale e io di una mia amica quando ero adolescente, mi ricordo che dissi una cosa talmente stupida che tutte le mie amiche mi dissero: ma che hai detto? Ed è vero. Ora non me lo ricordo, e grazie a Dio, ma ricordo di aver detto esattamente la cosa sbagliata. Quando qualcuno è nel pieno della sofferenza, sapete, molto spesso non dobbiamo prepararci predicozzi, perché questo è quello che hanno fatto questi tre. L'unica cosa buona che hanno fatto è rimanere con lui seduti a piangere. Quando viviamo nel dolore, quello di cui veramente abbiamo bisogno è di qualcuno che empatizzi con noi in quel dolore. Non che necessariamente l'abbia vissuto, che lo debba vivere con noi. Non dobbiamo sentirci capiti sul punto esperienziale, sul piano esperienziale. Non abbiamo bisogno necessariamente che qualcuno abbia esattamente vissuto le stesse cose per sentirci capiti. Non sempre così. Ma a volte basta che qualcuno pianga con noi. Che qualcuno venga da noi, rimanga in silenzio e pianga con noi. Che resti lì ad ascoltare il dolore, a sintonizzarci in quel dolore. Quello che invece non dobbiamo fare è esattamente questo, che quello che hanno fatto loro. Dal momento, dal capitolo 3 in poi, troviamo, sapete che cosa? Lasciatemelo dire, teologia spicciola, consigli superficiali. Anzi, tre persone che non hanno proprio avuto una maturità spirituale con il Signore, non conoscevano bene il Signore come Giobbe. Hanno portato Giobbe a credere delle cose di Dio diverse da quelle che Dio erano realmente. E sapete una cosa? Quando cominciamo a giustificare la sofferenza, attenti a quello che usiamo. Io ne sento di ogni. Sento ogni tipo di sofferenza, ma sento anche tanti giudizi. Te lo sei meritato. È colpa del peccato che hai fatto. Questo è tutto quello che questi tre hanno detto a Giobbe. I tuoi figli hanno peccato e tu stai pagando le conseguenze. C'è qualcosa nel tuo cuore che devi confessare, è per questo che Dio ti ha punito. Tutta questa, lasciatemi dire, è teologia superficiale. È frutto di un discorso che noi pensiamo sia spirituale, ma di biblico non ha nulla. Ed è soprattutto frutto di una relazione con Dio non matura. Perché la relazione con Dio matura la troviamo all'inizio. Di Dio che dice: questo è un uomo integro, e lo dice a Satana: questo è un uomo integro, qualsiasi cosa gli farai, lui non parlerà male di me, lui non mi lascerà, lui non peccherà con le sue labbra, lui rimarrà integro. E non abbiamo l'esempio in 40 capitoli di un uomo che dice: Dio sia lodato sempre, benedetto sia il Signore. No, no, è un uomo che ha avuto delle fasi, è un uomo che ha dovuto elaborare tutte le sue emozioni. È un uomo che ha processato tutto questo dolore, ma non certamente era sua la colpa per quello che era avvenuta. Lo chiariamo subito. Satana ha voluto fargli del male, punto. Attenti a quello che pensiamo della sofferenza. Quanto spesso Satana ci usa per allontanarci da Dio con questo tipo di pensieri. Quello che ne deriva è giudizio. È senso di colpa, è analisi. Cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto. E ad un certo punto Giobbe lo vediamo che dice: Signore, se ho fatto qualcosa, ti prego dimmelo, perché non sto capendo niente. Questo è quello che ha detto Giobbe. Dopo uno di questi dialoghi vediamo dal capitolo 3 in poi che il dolore di Giobbe, della sofferenza, si trasforma. E il dolore, vi assicuro, ve lo dico da psicologa, può prendere tante forme. Il dolore di Giobbe si trasforma prima di tutto in rabbia, in lamentela, in rancore. Sentite qua, Giobbe 3 verso 1. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Oh, non ha maledetto il Signore, ha maledetto la sua vita. Ha cominciato a far venire fuori tutte queste emozioni e questo dolore ha preso la forma della rabbia. Ancora in un altro verso, non lo vedrete sullo schermo, dice: non appena temo un male, esso mi colpisce. E quello che mi spaventa mi piomba addosso. No, cominciamo a vedere queste idee superstiziose circa il male, circa il dolore. Quasi no, come diciamo noi, non lo dico perché poi mi accade. Questo è quello che ha detto Giobbe. Questa non è un'idea biblica, questa è un'idea superstiziosa, ok? Però comincia a dire: non trovo riposo, né tranquillità, né pace. E sentite cosa dice? Il tormento è continuo. Non so se stai cominciando a pensare alle forme di dolore, o se stai vivendo, o se hai vissuto in una forma di sofferenza. Questo è quello che accade. Una delle cose che dice Elifaz, è un'altra delle cose brutte che spesso diciamo a chi è nel dolore. Elifaz comincia a dire: tu, ma proprio tu, leggiamo cosa dice nel capitolo 4, tu hai ammaestrato molti, tu hai fortificato le mani stanche, le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti, e ora che il male piomba su di te ti lascia abbattere, ora che è giunto fino a te sei tutto smarrito, il tuo timore di Dio non ti dà fiducia e l'integrità della tua vita non è la tua speranza. Oh Chiesa, Elifaz sta dicendo: Giobbe, ma proprio tu che sei un uomo forte, tu crolli ora che è capitato a te. Sì, attenti a guardare chi abbiamo davanti come dei supereroi, attenti a guardare, a non concedere alle persone di poter vivere la sofferenza. Questo non crea un territorio di vulnerabilità, questo crea un territorio di falsità, di ipocrisia. Alimentiamo così delle persone che dicono: no, devo dare sempre, non posso permettermi di stare male. Questa è una delle bugie che più ascolto. Non posso, se crollo io, crollano tutti gli altri. Non è sano questo. Ed Elifaz prende proprio lì, dice: proprio tu stai cadendo. Sì, proprio lui sta cadendo. Perché? Perché è accaduto a lui qualcosa di brutto. È il suo momento per soffrire. E Chiesa, noi dobbiamo concederci di soffrire. Noi dobbiamo concederci di poter stare male e ce lo dico reciprocamente. Un giorno sarai tu a dover incoraggiare me e il giorno dopo sarò io a dover incoraggiare te. Perché questa è la Chiesa. Lo sappiamo che possiamo incoraggiare i nostri pastori, i nostri leader, i nostri capigruppo. Non aspettiamoci che da loro ci sia sempre una parola forte di incoraggiamento, perché devono stare per forza sempre bene. Non è così. E Elifaz sta proprio dicendo questo: non te lo puoi permettere. Sì che te lo puoi permettere. E Dio risponderà così a Giobbe. Il dolore si trasforma in amarezza. Il dolore si trasforma in amarezza anche nei confronti di chi hai accanto. Giobbe al capitolo 6 comincia veramente ad essere amareggiato e rancoroso verso questi amici che potevano, era meglio se si stessero zitti. Leggiamo insieme, capitolo 6 verso 14. Pietà deve l'amico a colui che soccombe. Se anche abbandonassero il timore dell'Onnipotente. Avete mai avuto una persona che nel pieno del loro dolore hanno anche rinnegato Dio? Sì, io sì. Rimaniamo accanto, è un momento, è un processo, è il processo, rimaniamo insieme. Ma i fratelli miei si sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua di torrenti che passa. Il dolore si è trasformato in rabbia, il dolore si è trasformato in rancore e ancora il dolore si è trasformato in depressione pura. Giobbe 7, se ho peccato, che ho fatto a te, o guardiano degli uomini, perché hai fatto di me il tuo bersaglio a tal punto che sono divenuto un peso a me stesso? Perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità? Poiché presto giacerò nella polvere, tu mi cercherai, ma io non ci sarò più. Depressione proprio pura. Fa parte del processo. È nel pacchetto. Ci sta. Ancora, il dolore si trasforma in patteggiamento, che poi diventa umiltà. Leggiamo insieme Giobbe 9, dal verso 3 al verso 10. Se all'uomo piacesse disputare con Dio, ascolta bene queste parole, Dio non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. Disputare con Dio, questo è quello che farà Dio tra un po' con lui. Dio è saggio, lui è grande in potenza. Chi gli ha tenuto fronte e se ne è trovato bene? Egli trasporta le montagne senza che se ne accorgano, nel suo furore le sconvolge, egli scuote la terra dalle sue fondamenta e le sue colonne tremano, comanda il sole ed esso non sorge, mette un sigillo sulle stelle, da solo spiega i cieli, cammina sulle più alte onde del mare, è il creatore dell'orsa, d'Orione, delle Pleiadi, sono esattamente le parole con cui Dio incontrerà a Giobbe più tardi, e delle misteriose regioni del cielo australe, egli fa cose grandi e imperscrutabili. Sta dicendo, non lo posso capire Dio, è troppo grande, non riesco a capirlo, lui fa meraviglie innumerevoli, guarda ora, ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo, mi scivola accanto e non me ne accorgo. Dove è arrivato il dolore? Il dolore si è alzato, il dolore ha creato un velo, il dolore ha creato un muro, e questo fa il dolore. Sapete che il dolore chimicamente permea il nostro sistema nervoso. Quando siamo nella sofferenza, quando siamo nel dolore, il nostro sistema nervoso produce delle endorfine specifiche che non permettono, per esempio, di prendere delle decisioni sagge. Cioè, durante il dolore, con il dolore che mi prende, io non posso scegliere bene. Non posso, non che non ci riesco, io non posso. Il dolore prende tutto, e quello che noi chiamiamo biblicamente diventa un idolo. Si mette davanti a Dio. Avete visto cosa ha detto Giobbe? Egli mi passa vicino, e io non lo sento, non lo vedo, egli mi scivola accanto, ma io non me ne accorgo. Giobbe, e poi ancora, la rabbia diventa esasperazione. E Giobbe comincia a rimproverare i suoi amici, Giobbe 3, dice, tacete, lasciatemi stare, voglio parlare io, succeda quel che succeda. La rabbia diventa orgoglio, diventa ribellione, il dolore diventa rabbia, che diventa esasperazione, che diventa rancore, che diventa ribellione, che diventa orgoglio. A tratti Giobbe ha dei momenti di lucidità, ogni tanto gli arriva, no? Si accende quel neurone che dice, va, però mi sa che io credo un'altra cosa. E ad un certo punto, in Giobbe 19 al verso 25, dice questa, che è uno dei versi di Giobbe che noi più conosciamo a memoria, ma io prego che d'ora in avanti riusciamo ad utilizzarlo con ancora più facoltà, con ancora più conoscenza, perché nel bel mezzo del caos Giobbe esprime questa dichiarazione, la sua roccia, ma io so che il mio Redentore vive, ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Quante emozioni di Giobbe, se Giobbe avesse scritto una canzone, a questo punto troviamo Giobbe che parla queste parole. Ascoltiamo insieme di nuovo le parole di questa canzone, cantiamole insieme, immedesimiamoci in Giobbe. Sono buono, tu lo sei con me, sono giusto, tu hai scelto me, io sono un peccato. Tu mostri sempre amore, io cado spesso ma tu resti qui, sentimenti così fragili, so che spesso ti trascuro, il mio cuore impuro, ma scegli di amare. scegli me, ogni mio tu mi incontra sempre un po', perché non smetti mai di ricordarmi quanto ami me, non smetto mai di dirmi che ho bisogno di te. Io non comprendo come mai tu scegli me, ogni mio tu mi incontra sempre un po', perché voglio sforzarmi, ricordarmi ogni giorno che non è il momento, ma il tuo amore non è solo per un momento, per sempre, per sempre. Chiesa, dichiariamolo insieme. So che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Questa è la roccia, questa è la dichiarazione di Giobbe che ha sostenuto tutto questo processo così delicato, così profondo, così intenso, ma la sua dichiarazione di fede ha fatto posizionare Dio al centro di questa sofferenza, concedendosi ogni esplorazione, anche quelle più profonde, anche quelle più brutte, anche quelle più tenebrose. Ma questa è rimasta sempre la sua dichiarazione. Questa dichiarazione si trova fisicamente al centro del libro di Giobbe, perché è il centro della sua vita. Questo è il centro. E ad un certo punto riassumiamo quello che è successo. Grande sofferenza, consigli tremendi, processo del dolore. Ad un certo punto arriva qualcuno, e questo qualcuno è Eliu, ed è un ragazzino in confronto a questi tre uomini che si sono presi la scena nella vita di Giobbe. Però Eliu comincia così e dice proprio queste parole: sentite, sono la persona meno adeguata, cioè sono il più giovane tra di voi, vi ho ascoltato, ne avete detto tanto, ne avete detto tanto, mo statevi zitti e parlo io. E si prende la scena, ragazzi, si prende la scena, perché ha parlato per 6 capitoli interi, cioè di parole ce ne aveva, ma è arrivata la persona giusta con il consiglio giusto, attenzione, sulla roccia. La roccia, più la persona giusta, più il momento giusto, il processo. E Eliu ad un certo punto dice questo, Giobbe 37 verso 14, si rivolge a Giobbe, gli fa tutto un esamina di tutta la dottrina che hanno spiegato questi tre di prima che non hanno capito niente, e poi gli dice sta cosa: porgi l'orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Basta, gli dice Giobbe, fino ad ora non stai capendo niente, ma ora, per favore, ascoltami, non ascoltare più questi tre, ascolta me, fermati. Io prego che noi possiamo andare come Eliu nella vita di tanti, che noi possiamo sentirci le persone meno adeguate, meno titolate per dire delle cose, ma che Dio ci mandi a dire la cosa giusta nel momento giusto a tutte quelle persone che hanno necessità nel dolore di incontrare nuovamente Dio. E sapete, a questa parola Dio fa interrompere tutto, perché lo vediamo al verso dopo, Giobbe 38 verso 1, esattamente a concludere il discorso di Eliu, quasi vai, è pronto, cominciamo, e allora arriva Dio. Dopo tante parole, dopo 38 capitoli, arriva Dio. E Dio dice così, e c'è scritto proprio, Giobbe 38 verso 1, allora il Signore risponde a Giobbe, leggiamo insieme, in mezzo alla tempesta, perché la tempesta di Giobbe non era finita. Giobbe era ancora nel pieno del dolore, non era successo niente, anzi era peggiorato il suo status. Ma questo è il nostro Dio. Dov'era Dio durante tutti questi 38 capitoli, durante tutti questi anni di vita? Dio ha visto, Dio ha ascoltato. Giobbe l'ha detto, Dio mi è vicino, ma non lo sento. Però Dio rimane, Dio rimane, Dio rimane nella tempesta e Dio parla. E ad un certo punto Giobbe, Dio dice, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? E non sta parlando di Eliu, stava parlando di Giobbe. Giobbe, hai detto un po' troppo, gli dice Dio, mo parlo io. E come comincia a parlare Dio? Dice così, dov'eri tu? Wow, sai, è una di quelle spade che ti trafigge, la parola è una spada, è una di quelle cose che divide, come c'è scritto in Ebrei, dov'eri tu? Dov'eri tu? Io me lo sono immaginato così questo momento, che c'erano tanti protagonisti e poi ad un certo punto Eliu ha preparato un ring e Giobbe era lì, aveva preso un sacco di spazio su questo ring. Ad un certo punto è salito Dio e hanno cominciato, e Dio proprio contende, nel senso che dice, ok, vediamo cosa sai fare ora, ti dico quello che so fare io. E sapete, questo atteggiamento di Dio, questo suo fare, lo ritroviamo spesso nella Bibbia, lo ritroviamo in Isaia 1:18, vieni e parliamone insieme, incontriamoci. Cioè Dio dice, sali, parliamo, vieni qua, parliamo. C'è uno dei miei figli che quando mi arrabbio, perché mi arrabbio, non dovrei, ma mi arrabbio, lui rimane in silenzio. Io dico, vieni, parliamone, perché mi fai arrabbiare di più se sei in silenzio. Vieni, parliamone, perché... E poi arriva. Però questo fa Dio, parliamone, vieni. Isaia 1, vieni, discutiamone insieme, vediamo se i tuoi peccati rosso come lo scarlatto non diventino bianchi come la neve. Questo è lo stesso atteggiamento di quando Giacobbe incontra l'angelo. Vieni, combattiamo, vediamo chi vince qui e chi vince con Dio, dov'eri tu? Sapete quello che succede? Che ad un certo punto Dio comincia a quark, Piero Angela, muto, dov'eri tu quando io creavo il cielo? Quando io creavo la terra, sapete, Dio spiega tutto. Dov'eri tu? Quando io creavo tutto, ci sono varie, leggetevi di questi capitoli, sono incredibili. Dov'eri tu quando io creavo le Pleiadi? Giobbe, bello, me lo sono immaginato tipo Beyoncé, hey, come on, dov'eri tu mentre io facevo le Pleiadi? Bello, io me lo sono immaginato un po' così. Dio, dov'eri tu quando creavo gli animali? Dov'eri tu quando creavo le acque? Dov'eri tu quando io creavo le stelle? Tu ti immagini Giobbe che dice, ma perché ho parlato, ma perché? Io avrei voluto essere ritirata, no? In un momento, bam! E invece no! Perché il nostro Dio è un Dio onnipotente, sovrano, magnifico! La sua potenza sorpassa quella di chiunque altro. La sua è una potenza creatrice. Eppure, sapete io cosa ho immaginato? Che se Dio avesse voluto annientare Giobbe per quello che ha detto, non gli serviva neanche fare un colpo di ciglia, che Giobbe sarebbe stato fulminato istantaneamente, non avremmo mai più sentito parlare di Giobbe. E invece no, questa dichiarazione di sovranità è stata talmente potente, ma talmente dolce, che ha provocato in Giobbe una nuova rivelazione di Dio. La sovranità di Dio, perché è questa, Chiesa, Dio è sovrano, Dio è sovrano, Dio ha visto tutto, Lui c'era, Lui ha ascoltato. La sovranità di Dio è talmente amorevole da non annichilirci, da non annientarci, da non ridurci a briciole, ma la sovranità di Dio ci deve umiliare, questo sì, e l'umiltà ci mette nella condizione di riconoscere Dio in un'altra dimensione, con un'altra rivelazione. Infatti, dopo Doveri tu, ad un certo punto, Giobbe dice questo: tu, non io, tu, non io. Dichiarazione di Giobbe finale, il verso che conosciamo meglio di questo capitolo, di questo libro. Allora Giobbe rispose al Signore e disse, già che abbia avuto il coraggio di rispondere, dopo che ti ha detto, ma tu, dov'eri? Dice così, questa è la fine del libro, io riconosco che tu puoi tutto, tutto, e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il suo disegno? Stava parlando di se stesso, no? Vi ricordate chi è che copre? Sì, ne ho parlato, confessa, e parlerò, ti farò domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Ricordate la dichiarazione precedente? Dio c'è, lo sento, ma non lo vedo. Ed ecco la sua dichiarazione. Abbiamo qui un Giobbe completamente ristabilito, perciò mi ravvedo e mi pento sulla polvere, sulla cenere. Qui è, il capitolo si conclude ancora, non lo vedremo per mancanza di tempo, però se potete andatevelo a leggere. Giobbe viene ristabilito in toto. Giobbe viene ristabilito in primis nella sua relazione con Dio. Ora ti vedo. Eppure era un uomo che non ha sbagliato, una persona integra, ma ha vissuto una relazione con Dio impiantata su un tipo di rivelazione. Ma tutto questo dolore lo ha portato ad una rivelazione di Dio molto più profonda. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede, e ti vede perché ti sei alzato, Signore. Ti sei alzato sulla sofferenza, mi hai incontrato sulla sofferenza, mi hai permesso di arrivare a te, Signore, nella sofferenza, mi hai fatto parlare con te, mi hai fatto esplorare, eppure mi hai raggiunto. Amen. La completa guarigione di Giobbe continua, perché ristabilito nella relazione con Dio, Giobbe prega per i suoi amici, per quelli là, per i finti counselor. Dio li rimprovera, ne hanno avute di mazzate, stai attento a quello che dici, perché E sapete che cosa è successo dopo? Che bello questo principio. Dopo che Giobbe prega per i suoi amici, lui riceve tutto il resto: figli, beni, più di prima. Quando? Quando è ristabilito completamente l'equilibrio. Il grande comandamento ci parla di questo: ama il tuo Dio, ama il tuo prossimo come te stesso. Giobbe recupera se stesso, Giobbe recupera gli altri, ma Giobbe prima di tutto recupera una relazione con Dio, e dopo questo riceve tutto il resto. Il finale è bello, ci piace, e questo è un libro che finisce molto bene, però è un libro che parla del processo. Allora voglio incoraggiarci a non disdegnare il processo, ad elaborarlo, ma in tutto quello che stai vivendo, ti voglio suggerire solo due cose. Ascolta le voci giuste. Attento alla voce dei tre amici, potrebbero portarti molto lontano. Scegli le persone che devi ascoltare. Scegliele. E chiedi a Dio forse di turarti le orecchie dalle cose che non devi sentire. E la seconda cosa, vai a parlare con Dio. Vai ad incontrare Dio. Dio è il Dio del dove eri tu, che ci incontra e che si fa conoscere. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, Chiesa. Te l'ho detto che oggi era un tutt'uno e canteremo una canzone. Questa canzone, il libro finisce in piena adorazione, in piena adorazione. È il momento in cui dobbiamo riconoscere chi è Dio, il momento in cui dobbiamo riconoscere la sua sovranità, è il momento in cui dobbiamo riconoscere che Lui può tutto, anche dal basso della nostra sofferenza. Amen. Voglio chiedervi di alzare le braccia, di prendere, di adorare l'unico vero, l'onnipotente, colui che ha cura di te. E se stai processando la sofferenza e il dolore, alzale di più. Presentati a Dio, incontralo, adoralo, confessa a Lui, confessa la sua grandezza, ribadisci la sua grandezza, perché Lui vuole incontrarti, Lui vuole farsi conoscere come colui che hai, di cui hai sentito parlare fino ad ora, ma ora si vuole far vedere. Una nuova rivelazione, abbiamo bisogno di una fresca rivelazione di Dio. Se sei nella sofferenza, hai bisogno di un Dio che si faccia vedere nuovo e di nuovo. Di nuovo e più grande e più in profondità e più in potenza. Andiamo a Lui, ora. Amen.